mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo come anticipato anche di banche, perché dopo Intesa San Paolo ieri, oggi sono usciti altri bilanci di importantissimi istituti italiani, a partire da Unicredit, che ha chiuso 2014 con un utile netto di 2 miliardi, centrando l'obiettivo. Il dividendo è aumentato del 20%, sostanzialmente 12 centesimi per azione. Non c'è nessuna esigenza di aumentare il capitale, ha poi annunciato Federico Ghizzoni, il numero uno di Unicredit, e la conferma è la distribuzione del dividendo. Come dire, se distribuiamo parte degli utili è perché non abbiamo bisogno di... è la dimostrazione che non abbiamo bisogno di liquidità ulteriore, altrimenti non lo faremmo. Le sofferenze però sono cresciute a 52 miliardi, quindi crediti che Unicredit non riuscirà a riavere, e il tasso di copertura dei crediti deteriorati è al 51%. Sono sostanzialmente stabili le sofferenze, sono una leggera crescita a 52 miliardi. Sta valutando comunque Unicredit una richiesta di ulteriori fondi TLTRO, sono quelli che mette a disposizione la Banca Centrale Europea per le banche, non c'entrano nulla col quantitative easing, con l'acquisto di titoli di Stato, chiaramente. È l'operazione che, una delle tre operazioni annunciate da Mario Draghi, quella che permette alle banche di accedere al credito agevolato da parte della Banca Centrale Europea. Allora, la reazione della borsa, su Unicredit meno 3,70%, è il titolo peggiore oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione. Stanno per uscire alle 18, dovrebbe uscire anche il bilancio del Monte dei Paschi di Siena, il titolo perde l'1,15%, si attende un bilancio insomma in cui vi sarà più di una criticità, per essere quasi eufemistici. È uscito invece anche quello della Popolare Emilia Romagna, e dovremmo avere ospite tra l'altro l'amministratore delegato Vandelli nella seconda ora del programma. La Popolare Emilia Romagna ha visto l'utile netto a 29,8, quasi 30 milioni di euro, e contro i 16 dell'anno precedente. Tra l'altro il CDA ha anche approvato il nuovo piano industriale, l'obiettivo del piano è arrivare a 400 milioni di utile netto nel 2017. Piano di riduzione del 5% dei dipendenti, chiusura del 10% delle filiali, 130 sportelli in meno e 580 dipendenti in meno. Tra l'altro sul mondo delle popolari oggi è intervenuto anche il presidente della Consob Vegas in merito alla riforma delle banche popolari, e l'ha valutata come una riforma complessivamente positiva. Ma tornando alla borsa, faccio notare che invece la Popolare Emilia Romagna guadagna l'1,15%, la Pop Milano l'1,11%. Il miglior titolo in questo momento è Snam Rete Gas più 3%, Terna più 2,40%, Enel Green Power più 2,20%, Mediaset più 1,70%, A2A più 1,30%. Tra chi va male invece, oltre a Unicredit, Saipem meno 2,90%, Mediolanum meno 2,60%, Eni meno 2,30%, Telecom meno 1,90%, Buzzi Unice meno 1,50% come Unipolsai, Prismian perde l'1,20% come Jux, e appunto il Monte dei Paschi, ma anche Toz. Euro a quota 1,13,09, vicino a quota 1,12. Il petrolio oggi è in leggero calo, è tornato sotto i 50 dollari al barile, a 49,9 dollari al barile. Parleremo quindi dei bilanci bancari, ma anche del vertice europeo. Ci sono due notizie forti, chiaramente di carattere internazionale. Una riguarda la situazione della Grecia e quindi la riunione straordinaria dell'Eurogruppo, il vertice dei ministri economico-finanziari dei paesi dell'area euro, che è dedicata proprio alla Grecia. L'altro è il fronte ucraino, che in questo momento di carattere prevalentemente politico e quindi di politica estera, però le sue ricadute economiche sono chiare a tutti, nel senso che nel pomeriggio a Minsk è iniziato il vertice tra la cancelliera tedesca Merkel, il presidente francese François Hollande, il presidente russo Putin e il presidente ucraino Poroshenko, dopo che ieri, come molti di voi già sanno, i razzi dei filorussi hanno colpito alcune case a Kramatorsk, provocando oltre 15 vittime, ma soprattutto dopo che Obama ha chiamato Putin, sempre ieri, e oggi intanto si è saputo, secondo i media russi, vi sarebbero già dei militari statunitensi in Ucraina per discutere dell'addestramento della Guardia Nazionale di Kiev, ma soprattutto fonti europee hanno fatto sapere che nel caso di un chiaro fallimento del negoziato oggi a Minsk, tra appunto Merkel, Hollande, Putin e Poroshenko, l'Unione Europea andrebbe oltre la fase 3 delle misure contro la Russia, inasprendo le sanzioni economiche. E quindi ci si attende un incarico alle istituzioni europee per prepararle. Come si tengono assieme due cose? In nessun modo, nel senso che sono due vicende molto diverse, quella di Atene e quella di Kiev, con un unico punto di contatto, se vogliamo. Oggi la Russia ha annunciato che prenderà in considerazione la possibilità di concedere aiuti finanziari alla Grecia se tale richiesta arriverà da Atene. È chiaro la mossa di politica estera più che di economia. Atene non ha mai chiesto aiuti alla Russia. Nel passato si è ragionato invece di un aiuto che sarebbe potuto arrivare sia dalla Russia che dalla Cina, ma più come spauracchio, più come elemento tattico in quelle che sono le trattative tra Atene e Bruxelles. E oggi la Russia, con un chiaro elemento appunto di politica estera, per voler un po' rimescolare le carte, ha detto: noi siamo pronti a finanziare Atene se Atene ce lo chiede. È chiaro che appunto si tratta di più di tattica che di altro, ma è importante segnalarlo. Parleremo appunto anche del vertice europeo, tra l'altro sulla Grecia. Oggi il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, entrando proprio al vertice, ha detto: siamo qui per ascoltare, ascolteremo i piani del nuovo primo ministro greco, non mi aspetto risultati oggi, scusatemi, per noi il punto di partenza è il programma che già hanno e ritengo che debbano attenersi a quello. Tra l'altro ieri vi era stata la dichiarazione di Schäuble, che aveva gelato, diciamo, qualunque ipotesi di un altro programma. Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, considerato un falco. Da Berlino oggi arriva una nota del portavoce dello stesso Schäuble che dice: cerchiamo una soluzione, non per forza oggi, bisogna ascoltare dal governo greco le proposte, non cambieremo il nostro atteggiamento nei confronti dei regolamenti. E il caso delle riparazioni di guerra è giuridicamente chiuso, la posizione è espressa da mesi, perché si era riaperto anche il fronte delle riparazioni di guerra nei confronti della Grecia, le famose riparazioni di cui parlavamo anche ieri, che nel 1953 vennero sospese, o meglio per due terzi sospese, i restanti 11 miliardi di dollari, erano 23 miliardi in tutto. I due terzi quasi furono sospesi, poi 11 miliardi invece diluiti in un prestito a 30 anni. Varoufakis però oggi, ministro delle finanze greco, ha detto: serve il taglio del debito, e ha aggiunto che Atene lavorerà con l'Ocse sul piano di riforme. In tutto questo è intervenuto oggi anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi, ricordando da un lato che si vive un periodo di grande difficoltà, ma che l'Europa è la casa delle energie più belle, ma l'Europa stessa non è scontata. A chi dice che l'Europa non serve a niente, provate a pensare ai vostri nonni che 70 anni fa perdevano la vita al confine con la Francia, che venivano internati nei campi di sterminio. Pensate che oggi il nostro massimo scontro con i francesi e con i tedeschi, se non volete andare sui parametri e sulle questioni economiche, al massimo in una sfida di Champions League. Pensate che 70 anni di pace in Europa non ci sono mai stati. Pensate che l'Europa è la casa per la quale grandi idealisti in politica, nella società civile, nel mondo accademico e culturale hanno dedicato le energie più belle e più profonde. Certo, questo non significa che l'Europa sia lì scontata. Quello che sta accadendo in queste ore ai confini dell'Europa, tra Russia e Ucraina, nel cuore dell'Europa a livello economico, con la riflessione che anche domani porteremo al Consiglio europeo sul futuro del rapporto tra crescita e rispetto dei parametri di bilancio, impone e richiede a ciascuno di voi di essere orgogliosi cittadini italiani, ma anche capaci di amare l'Europa come casa della civiltà del mondo. Allora, vedo molti messaggi sul tema delle trattative per quello che riguarda l'Ucraina, che ci sono Hollande e la Merkel e appunto Poroshenko e Putin. Dov'è l'Europa? Il tema, molti di voi lo stanno segnalando al 349-238-6666 e alla pagina di Focus Economia su Facebook. Che ruolo ha la Mogherini, Mrs. Pesh? Allora, ha lo stesso ruolo che aveva Lady Ashton prima, cioè abbastanza inconsistente, diciamocela tutta. Dopodiché non è colpa della Mogherini, anche la Ashton forse è già passata nel dimenticatoio. Manca una politica estera dell'Unione Europea, ed è uno dei grossi problemi dell'Unione Europea. La politica estera dell'Unione Europea la fanno ancora i singoli stati in base al loro peso. Ecco perché poi vedi la Germania e la Francia andare a Kiev. Però non è che sia colpa della Mogherini, cioè anche la Ashton contava poco, no? Dal punto di vista della forza poi contrattuale e di politica estera. Casomai il ragionamento che si può fare è se sia stato giusto immolarsi, diciamo, per avere la Mogherini come rappresentante, come ministro degli esteri dell'Unione Europea, rinunciando a altri possibili cariche. Noi abbiamo sempre detto, molto personalmente, che forse era preferibile avere un commissario che si occupasse di materie economiche, all'industria abbiamo avuto Tajani, piace o non piace, ma comunque avere un italiano in quel ruolo chiave è servito. Pensate solo all'accordo europeo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, voluto allora da Tajani e che permise di scorporare dal deficit i rimborsi che la pubblica amministrazione dava alle aziende, o la direttiva sulle piccole imprese, la direttiva europea sullo Small Business Act, che anche quella, diciamo, mostrava una sensibilità verso un paese come l'Italia fatto di tante piccole e medie imprese manifatturiere. A nostro avviso si poteva puntare al commissario all'agricoltura, lo dicevamo più volte, facciamo anche un endorsement, appoggiammo in maniera del tutto bipartisan la persona dell'ex ministro De Castro, da tutti stimato. Certo che bisognava essere forse lì, perché lì decidi poi le politiche agricole, lì decidi anche l'atteggiamento nei confronti del made in, della tutela del marchio. Si è voluto andare avanti sulla Mogherini, sulla politica e sul ministro degli esteri, che ha un peso molto più basso rispetto a altri commissari europei. È stata una scelta del governo, a nostro avviso, sbagliata. Però detto questo, adesso non è colpa della Mogherini se la politica estera, come si è sempre fatto in Europa, la continuano a fare i singoli paesi. Andiamo avanti per quello che riguarda la Robin Tax. Qualcuno se la ricorderà. La Corte Costituzionale ha deciso che è incostituzionale, ma solo pro futuro, cioè a partire dal giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, che dovrebbe venire oggi stessa. Perché la Robin Tax ha previsto una maggiorazione d'aliquota di un'imposizione, qual è l'IRES, che colpisce l'intero reddito di imprese e non solo i sovrapprofitti, e manca un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito supplettivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura. Insomma, questo è uno dei motivi, che può essere tradotto tassa l'intero reddito e non gli extra profitti, per cui la Corte Costituzionale ha bocciato per il futuro come incostituzionale la Robin Tax. Ancora, per quello che riguarda invece il tema fiscale, la delega fiscale, poco fa il vice ministro dell'economia Luigi Casero, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, ha chiesto una proroga di 6 mesi della scadenza della delega fiscale che era prevista per il 27 marzo e ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri del prossimo 20 febbraio arriveranno i decreti delegati sui giochi, sulle imprese e sull'attrazione dei capitali. Poi toccherà il contenzioso, alla parte che riguarda il contenzioso, all'accertamento e alla parte sanzionatoria. Il governo punta così a presentare 2 scaglioni di provvedimenti omogenei. Il governo ritiene che sia indispensabile chiedere una proroga di attuazione della delega e quindi il governo si impegnerà a presentare una proposta di proroga di attuazione della delega di 6 mesi. 6 mesi riteniamo che possa essere il tempo necessario per arrivare alla definizione finale di provvedimenti della delega stessa. Naturalmente in questi 6 mesi il governo presenterà una serie di decreti e verranno presentati entro i primi 3 mesi, diciamo dalla scadenza, quindi che era il 27 marzo, entro i primi 3 mesi della scadenza, in modo tale da permettere poi il dibattito all'interno delle commissioni, la possibilità di rivedere questi decreti e quindi arrivare all'approvazione definitiva. Voi sapete che il termine finale di approvazione della delega non è quello di presentazione del primo decreto, ma è quello di firma diciamo del Presidente della Repubblica sul decreto legislativo finale, che richiede tutto un percorso. Quindi questo è il percorso che riteniamo possa essere un percorso utile e produttivo per arrivare all'obiettivo che ci siamo dati, che penso che sia un obiettivo condiviso, che è quello di attuare nel modo migliore possibile la delega, cercando di mantenere, dicevo, lo spirito e quanto è contenuto nella delega stessa. Allora, visto che parlavamo di fisco, al tema fiscale e dei controlli fiscali sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, in collaborazione con RDS. La firma del vice direttore di oggi è quella di Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alberto Orioli. Il grande occhio del fisco guarda i conti correnti, i depositi postali e ogni operazione fatta con intermediari finanziari. Una disposizione dell'Agenzia delle Entrate prevede che entro il 2 marzo venga comunicato al fisco ogni movimento finanziario del 2013. Per i dati 2014 l'invio avverrà il 29 maggio e dal 2016 entrerà a regime una nuova piattaforma elettronica in cui i dati confluiranno mese per mese in automatico. Ma cosa guardano gli 007 fiscali? Tutto, i movimenti bancari, il saldo dei conti a inizio e fine anno, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, gli acquisti in valuta e oro, perfino i fondi pensione o gli acquisti di derivati e i mutui. Insomma, tutto. Sono informazioni più che sensibili che il fisco utilizzerà con grande oculatezza e secondo regole precise dettate dalla legge di stabilità. Saranno una ventina, infatti, gli 007 dell'Agenzia delle Entrate con facoltà di accedere a quella banca dati. L'obiettivo naturalmente è verificare gli scostamenti tra i redditi dichiarati e il tenore di vita. In effetti è la strada giusta, la tracciabilità e la trasparenza sono le 2 armi migliori nella lotta all'evasione fiscale. Ma non basta, sono migliaia ad esempio i contribuenti del tutto sconosciuti al fisco che hanno creato i fondi in Svizzera, ora scoperti con la cosiddetta lista Falciani. Sono i cosiddetti evasori totali, che non hanno mai pagato un euro di tasse in tutta la loro vita e dovrebbero essere effettivamente il primo bersaglio del grande occhio del fisco. E speriamo che sia davvero così, speriamo soprattutto che non diventi l'ennesimo sistema di vessazione fiscale per chi paga tutto e magari finisce in una via crucis perché ha scordato una ricevuta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, ancora 2 notizie, una riguarda UbiBanca, ma riguarda più le indagini della Guardia di Finanza, le perquisizioni nella sede di UbiBanca che si sono realizzate questa mattina, disposte dalla Procura di Bergamo e realizzate appunto dalla Guardia di Finanza. Si ipotizza nell'inchiesta che ha portato a queste perquisizioni, si ipotizzano presunte irregolarità durante l'assemblea della banca del 2013, nel corso della quale sono stati eletti il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione dell'istituto. Secondo l'accusa sarebbero state raccolte illegalmente deleghe in bianco e anche deleghe con firme falsificate. Oltre che nelle sedi di UbiBank, le perquisizioni sono avvenute anche nella sede di Bergamo della Compagnia delle Opere e della Confiab, che è la Confederazione degli Artigiani di Bergamo. E indagati comunque nel nuovo filone di inchiesta diretto dal PM di Bergamo Fabio Pelosi, indagati, dicevo, anche il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, nella qualità di presidente dell'associazione Banca Lombarda e Piemontese, e tutti i vertici di UbiBanca. Bazzoli in una nota ha fatto notare che la recente attività investigativa disposta dalla Procura di Bergamo, di cui ha dato notizia la stampa, afferisce al medesimo procedimento in corso dall'anno passato, e ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti che sono oggetto delle nuove prospettazioni di indagine. Allora, è una notizia invece che ha a che fare con quanto raccontiamo tutti i giorni, perché riceviamo tantissimi messaggi di persone che ci chiedono ma perché, per esempio, la deflazione fa male, perché i prezzi che calano non fanno bene. Lo spieghiamo con i tempi, i modi, la sintesi e anche delle volte l'approssimazione che la radio comporta. In realtà spieghiamo, per esempio, che la deflazione porta ad aumento del valore del debito per chi ha un debito, il valore reale cresce, soprattutto porta a un rimandare i consumi in attesa che i prezzi continuino a calare, e soprattutto quando è dovuta non a un mercato efficiente in cui c'è una bella concorrenza e i prezzi calano, ma è dovuta al crollo dei consumi, è il termometro di quanto un paese sia in ginocchio sui consumi. In realtà domani, con il primo numero del giornale della famiglia, che sarà in edicola ogni giovedì con il Sole 24 Ore, riuscirete a capire molto meglio di quanto abbia spiegato io perché bisogna preoccuparsi della deflazione. Il giornale della famiglia vuole essere uno strumento, lo dico perché è quello che cerchiamo di fare noi con Cuore Denari, con Focus Economia e con altri programmi, per spiegare a tutti termini che ormai infarciscono e connotano la vita quotidiana. Pensiamo a deflazione, pensiamo a tassi di interesse, pensiamo a inflazione, al rapporto che c'è anche tra queste variabili, per non dire poi il quantitative easing. Ecco, spiegando con 8 temi importanti, con un giornale apposito, ecco perché abbiamo chiamato Giornale della Famiglia, sono inserti monografici realizzati dalle firme del Sole 24 Ore in edicola ogni giovedì per 8 giovedì. E speriamo che appunto serva a creare sempre più cultura economico-finanziaria in questo paese. Dopodiché ho invece una notizia non bella che riguarda i vitalizi, lo so, che sono riapparsi come un blitz nel Consiglio regionale della Puglia. Ma siccome avevo promesso in un'intervista anche che desse l'esempio di come un ente locale può fare quello che può fare un ente locale, un comune, per il mondo dell'impresa, per quello che riguarda gli sgravi fiscali, ma anche l'alleggerimento di tutte le procedure burocratiche, adesso andiamo in pubblicità e meteo, poi raccontiamo purtroppo quello che è successo in Puglia, ma raccontiamo anche un caso virtuoso, e quindi l'iniziativa del Comune di Bergamo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, meteo. Allora, dicevamo dei vitalizi, non sono una nostra ossessione, è un modo per raccontare anche come alcune parti del paese parlino di crisi, ma la crisi riguarda sempre gli altri. In Puglia non li chiameranno più vitalizi, ma chi se ne frega, i prossimi consiglieri regionali pugliesi li chiameranno proprio pensioni. Quindi tutto il ragionamento fatto in questi anni sul fatto che il vitalizio, e in molte regioni l'hanno eliminato, in Lombardia per esempio è stato eliminato, fosse un qualcosa di incomprensibile, perché la pensione è sostanzialmente un accantonamento per il futuro di parte del tuo salario e hai un lavoratore. Il vitalizio non si capiva da cosa nascesse. Uno fa il consigliere regionale e lo fa, riceve uno stipendio, giusto che ce l'abbia, una copertura delle spese, ma il vitalizio no, non è un lavoro fare il consigliere regionale. Eppure in Puglia li hanno fatti rientrare dalla finestra, nonostante la legge li avesse aboliti da inizio 2012, travestiti da pensione grazie a una delibera approvata il 19 dicembre scorso dall'ufficio di presidenza all'unanimità e in gran segreto, tant'è che sul sito non era disponibile fino a pochi giorni fa. Costeranno alla regione un altro milione di euro, i pugliesi ringraziano, e a differenza dei vecchi vitalizi si calcoleranno con il sistema contributivo, quello applicato ai lavoratori, aggiungerei quasi veri. La trattenuta è fissata al 33% dell'indennità mensile, pari a 7.000 euro, ma soltanto l'8,8% è a carico del consigliere, qui sta la gabola. Il 24%, 1.690 euro al mese, gli mette la regione. E quindi, a conti fatti, la Regione Puglia spenderà per ogni consigliere altri 100.000 euro a legislatura, 5 milioni di euro per i 50 consiglieri prossimi venturi, soldi che la Regione dovrà spendere, che vanno a sommarsi a quanto già spende per i vecchi vitalizi, 13 milioni di euro l'anno. Allora, ci rendiamo conto, tra l'altro, una cifra che è destinata a aumentare quando decadrà il consiglio in carica. Pur non essendo cumulabile con l'indennità parlamentare, come avviene invece per il vitalizio, la pensione della Regione potrà essere tranquillamente accumulata con quella, con la pensione normale e quindi anche quella parlamentare. Poi potrei raccontarvi di Calabria Etica, che al di là del nome è una fondazione della Regione Reggio Calabria, la cui finalità dovrebbe essere appunto il sostegno alle fasce deboli, ma lì forse si sono capiti male sul termine fasce deboli. Le fasce deboli non sono quelle dei tuoi parenti, dei tuoi amici, perché in realtà si è trasformata in una gigantesca fabbrica clientelare, elargendo contratti in cambio di sostegno elettorale, l'ipotesi su cui lavora la procura di Catanzaro, nucleo, e ci sono 700 contratti vagliati, ma nessun indagato. Pensate che a 48 ore dalle elezioni regionali dello scorso 23 novembre, negli uffici della Fondazione Calabria Etica, venivano ratificate 250 nuove assunzioni, due giorni prima delle elezioni, coincidenze, per 4 milioni di euro. E la cosa interessante è che chi ha ottenuto un contratto per un anno sono per la maggior parte giovani residenti nel collegio centro Catanzaro Vibo Crotone, la circoscrizione, sempre come coincidenza, in cui si è ricandidato ed è poi stato rieletto Nazareno Salerno, che all'epoca di queste assunzioni era, sempre come coincidenza, il titolare dell'assessorato al lavoro, a cui fa capo, sempre come coincidenza, Calabria Etica. Vabbè. Che la fondazione ha continuato ad assumere fino a poche settimane fa decine di contratti da 1.300.000 euro con un unico denominatore comune: devi risiedere a Lamezia Terme, dove il presidente della fondazione Pasquale Roberto è in corsa per la poltrona di sindaco. È una coincidenza, sono tutte coincidenze. E poi non vogliamo mica pensarla come Agatha Christie, che diceva che due indizi o tre indizi fanno una prova. Sono coincidenze. Così come è una coincidenza che tra le assunzioni fatte c'è anche quella della compagna di Pasquale Roberto, appunto il presidente della fondazione. Ha firmato un contratto per un anno nel marzo 2014 e ha avuto un contratto il 10 dicembre scorso per tre anni da 114.000 euro come responsabile della comunicazione. Poi è esploso il caso e si è dimessa, ho capito. Allora non era una coincidenza, boh. Ovviamente, come sempre in sto paese, Roberto difende il suo operato, tutti i contratti sono stati stipulati all'insegna della regolarità amministrativa. Sì, non abbiamo dubbi sull'opportunità, forse magari apriamo un ragionamento. Ma il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio, mi dice che si è di fronte a un rapporto distorto con il territorio. Ma ditela tutta, non è distorto. È perfettamente dritto per l'obiettivo che vuole ottenere, se l'accusa del presidente della regione è di avere che Calabria Etica svolga un ruolo così clientelare con gli elettori. Non è distorto, è dritto quello. Però qualche esempio positivo vogliamo darvelo. Dicevamo, poi ieri non siamo riusciti a mandare in onda, abbiamo raggiunto il neo sindaco di Bergamo ed è Giorgio Gori, che molti di voi ricorderanno perché ha avuto un lungo passato nel mondo Mediaset, nei format televisivi, perché ha lanciato un'iniziativa in cui la provincia, che di fatto è la seconda area manifatturiera del paese, la provincia di Bergamo, offre un insieme di servizi a chi vuole lì insediarsi, sia di agevolazioni fiscali ma anche semplificazione burocratica. Abbiamo chiesto a Giorgio Gori, in primo luogo, a dimostrazione che il comune di Bergamo, che gli enti locali servono quando sono e quando hanno iniziative per il territorio, a chi si rivolga questa iniziativa? Si rivolge alle imprese innovative, che possono essere imprese della manifattura, imprese del terziario, start-up, ma non solo start-up, possono essere i quartieri direzionali di grandi imprese multinazionali, possono essere imprese creative, come vengono definite. Ovvero tutti quelli che in qualche modo riconduciamo l'idea dell'high-tech, che è descritto dagli studiosi in tutto il mondo come il settore economico capace in questo momento davvero di trainare lo sviluppo. Ci sono studi sulle città americane e europee che dimostrano come quelle che hanno più saputo intercettare imprese di questa natura e hanno saputo attrarre capitale umano di qualità hanno poi trainato la crescita, e viceversa quelle che non l'hanno fatto sono addirittura regredite. Allora è la prima volta che una città italiana, Bergamo in questo caso, prova a lanciare un pacchetto di provvedimenti per attrarre sul suo territorio le industrie dell'innovazione. Lo fa mettendo in gioco risorse economiche, quindi incentivi di natura fiscale, rinunciamo, azzeriamo l'IMU che spetterebbe al comune, facciamo comunale. Un investimento decidendo di dimezzare o addirittura di ridurre del 75% in alcuni casi oneri di urbanizzazione e standard, purché l'insediamento avvenga in aree dismesse, cioè in territori già urbanizzati, ce ne sono molti nelle nostre città. C'è stato un periodo in cui la manifattura usciva dalle città e lasciava dei vuoti alle sue spalle. Quei vuoti oggi possono essere in parte colmati di nuovo da attività produttive di nuova generazione, ovviamente in cui il contenuto informativo di ricerca e di tecnologia sia prevalente. Quindi Bergamo si colloca su questa posizione un po' di attacco, lo fa ovviamente con il concorso delle forze del lavoro del territorio, Confindustria, imprese del territorio, sindacati, e cerchiamo di rappresentare un futuro un po' più positivo di quello che abbiamo alle spalle. Ecco, su questo io mi auguro invece che, è chiaro che per voi è importante essere gli unici, ma io mi auguro invece che l'iniziativa diventi un'iniziativa pilota, per però non essere fuorvianti, che caratteristiche devono avere queste imprese? Lei diceva intanto l'area dismessa, devono essere start-up, con che caratteristiche? No, non devono essere start-up necessariamente, possono essere imprese che da qualunque altra parte d'Italia o del mondo decidono di considerare questo territorio che ha molte qualità da spendere, perché è un territorio al centro di una delle aree economiche più sviluppate d'Europa, è fortemente infrastrutturato, è un territorio di qualità ambientali, di servizio alla persona di grande livello. Aggiunge a tutto questo una misura economica di incentivazione, cioè costa meno mettere la propria sede, costruire un capannone piuttosto che spostare i propri uffici a Bergamo in questo momento rispetto ad altri comuni. Ecco, vediamo di questi costi, sono di carattere in primo luogo fiscale o anche di carattere burocratico? Perché noi sappiamo che un problema è sì, sicuramente la pressione fiscale, ma sono anche i tempi tripli, quadrupli, delle volte quintupli rispetto a altri concorrenti europei per riuscire a far partire un'attività. L'abbiamo raccontato decine di volte. Ora, è appropriata la domanda perché le misure di tipo economico sono rivolte esclusivamente alle imprese di carattere innovativo, viceversa la semplificazione, che è l'altra parte del provvedimento, è rivolta evidentemente a tutti, a quelle che già anche operano sul territorio. Ed è altrettanto importante perché noi facciamo un salto da una posizione già eccellente in termini di digitalizzazione dei servizi amministrativi e consentiamo a questo punto, anzi imponiamo alle imprese di fare qualunque tipo di istanza, di relazione, di richiesta, di modulo, di pagamento attraverso gli strumenti informatici. Questo semplifica moltissimo e non solo. Il comune si pone al centro della relazione tra le imprese e i vari soggetti. Di solito tocca andare prima al comune, poi ai vigili del fuoco, poi all'ARPA, poi di qua, poi di là. Il comune si mette a disposizione delle imprese come soggetto che fa la regia di questi rapporti. Allora facciamo un esempio concreto. C'è un dossier che voi avete presentato, tutti lo possono consultare immagino sul sito del comune, certo, per cui sì. non vogliamo e non possiamo soprattutto elencare tutte le caratteristiche e le offerte, ma io sono un'impresa che ha un'idea, poniamo che io sia una startup, così prendo l'esempio più, sì, più ficcante, mi rivolgo a chi, a che cosa mi offrite? Allora, basta andare sul sito del comune, c'è un geoportale, si chiama Sigi, è uno strumento molto efficace perché tutte le relazioni tra l'amministrazione pubblica e le imprese possono transitare da questo strumento informatico. Lì trova tutte le informazioni e da lì e da lì ottiene anche le condizioni per poter insediarsi sul territorio del comune, purché, ripeto, in un'area già urbanizzata, e gli incentivi che a questo si legano. Sono incentivi di natura, ripeto, fiscale, azzeramento dell'IMU dovuta al comune. Soprattutto la misura è quella degli oneri di urbanizzazione. C'è un esempio nel documento che abbiamo presentato. In condizioni normali oggi un'impresa dovrebbe pagare 500-8.000 euro di oneri e altrettanti di standard qualitativi per un insediamento di circa 5.000 metri quadrati. Arriviamo a circa 72.000 euro, quindi con un risparmio di oltre 400.000 euro per quel modello di impresa. C'è un tetto al numero di imprese? Assolutamente no. Ma non solo, io non ho idea di quante, se qualcuno risponderà a questa chiamata, e quante potranno essere le imprese, però insomma la scommessa è quella. Beh, insomma, allora l'iniziativa l'avete ascoltata e speriamo, ripeto, che sia un'iniziativa anche pilota per altre. È quello che un ente locale può fare. Adesso vedo i messaggi, ma insomma non è che l'ente locale può sostituirsi allo Stato. C'è una componente burocratica che è dell'ente locale, ci sono dei costi, come ricordava il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, dei costi, diciamo, degli oneri, sono più che oneri, dei costi, e sono tempi che per le aziende sono ugualmente soldi. Ora, io ho la sensazione che ci sia qualche segnale di ripresa, questa perlomeno è la scommessa che tutti quanti, diciamo, facciamo con un po' di ottimismo. Molto sommessamente li vediamo anche noi, molto molto sommessamente. Una cosa volevo capire, visto che lei ha passato tantissimi anni nel privato e a produrre format televisivi, adesso che lavora nell'ente pubblico, per definizione il comune, diciamo, ci sono un po' di stereotipi sul mondo del pubblico. È chiaro che dice a Bergamo è un po' più efficiente che in altre parti d'Italia, lo dice anche la classifica del Sole 24 Ore, ma oppure veramente il pubblico ragiona con logiche così diverse dal privato? No, il pubblico ha le sue logiche ovviamente, ma come in tutte le organizzazioni ci sono ottimi dipendenti pubblici, ottimi dirigenti pubblici e quelli che invece ottimi non sono. La caratteristica che colpisce chi viene dall'impresa privata è come i dipendenti di un ente pubblico siano tenuti a spendere più della metà, direi, del loro tempo in attività di rendicontazione di ciò che fanno, e come il sistema normativo li metta oggi nella condizione di mettere al primo posto il fatto di non sbagliare, di non essere ripresi, colti in fallo. Manca una cultura spesso dell'obiettivo, cioè anteporre il risultato al processo. Invece spesso mi ritrovo con persone che, pure con ottima buona volontà, cioè l'obiettivo è il processo. Esattamente. Ma è più facile beccare e imbroccare un format di successo o fare il sindaco? No, fare il sindaco è un mestiere molto complicato e richiede dedizione, direi, totale. Ciò detto, non è che una città va avanti soltanto perché c'è un sindaco. Ci sono ottimi dipendenti, ottimi dirigenti e una squadra che lavora insieme a lui. Allora, dimostrazione di come poi gli enti locali, quello di Bergamo è solo un esempio, ma servono tantissimo. Noi critichiamo gli sprechi, critichiamo la malversazione, il malaffare, anche le cattive abitudini per non arrivare poi ai reati. Ma poi se un ente locale funziona è fondamentale che sia un comune, che sia una regione. Poi chiaramente ci sono gli apparati dello Stato. Adesso c'è il traffico invece, poi iniziamo la lunga pagina di borsa, che oggi è una pagina dedicata soprattutto ai bilanci bancari. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, la pagina dedicata alle banche, perché oggi, ieri è stata la volta del bilancio di Intesa San Paolo, oggi UniCredit, come ricordavamo in apertura, 2 miliardi di utili per il 2014 in linea con gli obiettivi, il titolo reagisce male in borsa, poi ne parleremo, meno 3,46%, dovrebbe arrivare fra poco anche il Monte dei Paschi di Siena, è uscita anche la Popolare Emilia Romagna. Andiamo con ordine, Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. UniCredit e le attese sul Monte dei Paschi, perché poi avremo invece l'amministratore legato della Popolare Emilia Romagna in collegamento. Prego Marco. Ma sì, Unicredit di fatto ha confermato quelle che erano le attese, sì. 2 miliardi di utili come accennavi, quindi dividendo leggermente ritoccato al rialzo rispetto all'anno scorso, 12 centesimi, sempre nella forma dello scrip dividend, il che vuol dire che i soci potranno incassare in azioni o se no se lo richiederanno cash. Come accennavi però l'attesa effettivamente per il Monte, a minuti dovrebbero uscire i conti, e conti che sicuramente saranno in rosso, bisogna vedere di quanto. Sì, quindi tutti si attendono che vi siano molte criticità, ma bisogna capire l'ammontare. La reazione di borsa, adesso poi ne parleremo anche con Fontana, è stata molto pesante su Unicredit, meno 3,46%. C'è qualche sorpresa? Abbiamo visto un Ghizzoni ricordare che comunque sta valutando un'altra richiesta alla BCE di TLTRO, però diciamo, le sofferenze sono cresciute a 52 miliardi, ma lo stesso Ghizzoni ha detto... Il fatto che distribuiamo un dividendo attraverso la cedola a 12 centesimi dimostra che non abbiamo un problema di liquidità e quindi no a alcune ipotesi di aumento di capitale. Ma sì, guardando, scorrendo i primi report che sono usciti dopo i conti, effettivamente forse un po' di delusione sul fronte del capitale, anche perché non dimentichiamo che Unicredit è una delle banche, insomma delle banche sistemiche a cui progressivamente verrà chiesto sempre di alzare il proprio appunto livelli di capitale prudenziale. Di conseguenza il 10% di CET1, insomma che è uno dei requisiti più importanti, forse è considerato non di estrema sicurezza da parte di alcuni analisti. Per dire, ha fatto impressione l'aumento del Santander di qualche settimana fa, che effettivamente dall'oggi al domani ha appunto avviato un maxi aumento. Tuttavia, effettivamente c'è dividendo, Ghizzoni è stato abbastanza netto nel dire che c'è stato molto netto nel dire che non si parla di aumento, e anche le richieste in BCE di cui parlavi tu sono destinate ai crediti, quindi come dire attività ordinaria, effettivamente la situazione è sotto controllo. Un'ultima domanda, così stiamo ancora sulla borsa. Monte dei Paschi oggi perde l'1,31%, però Marco, questo vuol dire che la borsa si attende che le brutte notizie, la situazione difficile del Monte dei Paschi sia però quella che il mercato ha in parte o in buona parte già scontato? Sì, perché qui siamo sempre ancora a parlare dei famosi esami della BCE dell'ottobre scorso, ormai sono mesi che ne parliamo. Chi ha prevenuto, chi ha preferito prevenire, oggi è in grado di dare utili. Chi invece, volente o nolente, deve ancora scontare un po' le richieste della BCE, evidentemente paga. Il fatto che il Monte dovrà farlo si sa ormai da 3 mesi, bisogna capire se, come si teme, come è probabile, effettivamente tutti gli accantonamenti chiesti dalla BCE verranno messi a bilancio e quindi potrebbero portarlo in grosso di 3-4 miliardi o insomma un ordine di grandezza di questo genere. Allora, noi restiamo sulla borsa, intanto ringraziamo Marco Ferrando del Sole 24 Ore e lo salutiamo, mentre ringrazio anche Andrea Fontana di Radio Core Sole 24 Ore per averci raggiunto in collegamento. Buonasera anche a te, Andrea. Buonasera Sebastiano. Allora, del titoli bancari abbiamo già detto, Ferrando giustamente sottolineava come forse l'eccesso di prudenza rispetto a altri grandi istituti dell'Unicredito un po' l'ha penalizzato. Vedremo poi cosa capiterà alle altre banche della Popolare Emilia Romagna, ripeto, parliamo dopo il GR24. Oggi netto calo però anche petrolio con Saipem meno 2,90, Eni meno 2,14, di nuovo Telecom Italia meno 2,20, ma molto era cresciuto dopo la notizia di BlackRock. Andrea. Sì, certamente per quanto riguarda Telecom Italia si tratta di realizzi, visto che il titolo si era riportato in area 1 euro e questa è una soglia un po' critica per questo titolo. Per quanto riguarda i petroliferi c'è stata una correzione significativa del petrolio, soprattutto del prezzo del petrolio, anche fino a $49 al barile e anche un po' più sotto quando sono state diffuse i dati sulle scorte settimanali statunitensi di petrolio, che sono state ancora una volta superiori alle attese, quindi ne ha sofferto tutto il comparto, tant'è vero che il settore minerario è stato tra i peggiori non solo in Italia ma anche in Europa. Allora Andrea resta con noi, adesso c'è il GR24, poi torniamo per il commento del resto della borsa, parliamo con l'amministratore delegato del Popolare Emilia Romagna e chiudiamo sul vertice Eurogruppo per quello che ci sarà relativo alla Grecia. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. We'll be right back. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Fontana, dicevamo, al di là di Eni, di Telecom e delle banche, oggi si è mossa bene invece Snam, più 2,96%, Terna più 2,20%, Enel Green Power più 2,20% anch'essa, Mediaset più 1,25%. Ancora abbiamo visto andare male Unipol e Mediolanum. Mediolanum diffuso i conti, utile a 321 milioni, però il titolo era, e il dividendo, a 27 centesimi di euro. Era a livelli alti Mediolanum, Andrea? Sì, assolutamente, per questo si tratta della classica situazione di vendita sulla notizia, quindi sul rilascio dei conti che sono stati in linea con le attese, il mercato ha realizzato. Mentre per quanto riguarda Unipol, che tu ricordavi, è stato tra i peggiori titoli di tutto il listino milanese, ha perso il 6,7%, perché il mercato si aspettava un dividendo più alto, è stato invece deluso da alcuni aggiustamenti dei conti nel quarto trimestre, e questo ha portato a una delusione che si è subito riflessa sull'andamento del titolo. E infatti Unipol ha visto salire a 783 milioni l'utile, in calo però la cedola, quindi il dividendo. Oggi stanno uscendo in questi giorni tantissime bilanci delle banche. Banca Generali ha chiuso il 2014 con un utile netto consolidato di 161 milioni, Massim in crescita del 14%, e le commissioni di gestione salite del 21%, le masse gestite hanno toccato i 36 miliardi più 26%. Poi la reazione anche su Popolare di Milano da un lato e UbiBanca dall'altro, Andrea? Per Popolare di Milano una buona reazione, più 1%, soprattutto ha sorpreso gli analisti il ritorno al dividendo per quanto ridotto, cioè di 0,022 euro, ma è un dividendo che mancava da 3 anni per la Popolare di Milano, mentre UbiBanca ha pagato notizie extra non riguardanti i conti, e in particolare le perquisizioni che sono avvenute oggi nella sede della banca a Bergamo e in altre sedi, riguardanti un'indagine per ostacolo alla vigilanza da parte di 11 indagati, tra essi ci sono anche i vertici del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, e la reazione del titolo alla notizia è stata negativa e ha perso l'1,2%. Allora, tra i migliori e i peggiori, Sintesi più 33%, Edes più 14%, Aeroporto di Firenze più 12%, tra i peggiori invece in assoluto Eukedos meno 8,60%, Unipol come tu citavi meno 6,70%, delusione per il dividendo, e ancora Carraro meno 4,70%. Bene si è mossa invece la Popolare Emilia Romagna, tra le banche che hanno appunto e stanno diffondendo i conti del 2014, più 1%, e di questa, nel ringraziare Andrea Fontana, continuiamo a parlare. Allora, utile netto a quasi 30 milioni di euro, 29,8, obiettivo contro i 16,1 dell'anno precedente per la Popolare Emilia Romagna, approvato anche il nuovo piano industriale 2015-2017, 400 milioni di utile nel 2017, questa è l'ambizione e questo è l'obiettivo. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento l'amministratore delegato della Popolare Emilia Romagna, Alessandro Vandelli, buonasera. Buonasera a voi. Prima domanda, come pensate di arrivare da 30 milioni a 400 milioni in 2 anni? Ma guardi, credo che ci sia un intervento che va a toccare diversi ambiti dell'operatività, dai ricavi al modello operativo e al profilo di rischio, ma quest'ultimo, il profilo di rischio, credo che sia l'elemento più significativo. In questi anni il nostro gruppo ha incrementato in maniera importante le coperture dei crediti problematici, siamo arrivati ad oltre il 40% quest'anno, noi abbiamo completato questo percorso importante anche in ottica asset quality review della Banca Centrale Centrale Europea, siamo pronti per cominciare invece a scendere come costo del credito, quindi noi pensiamo che da questo ambito derivi uno spazio significativo per incrementare i risultati. Dall'altro lato però c'è anche una redditività che nasce dalla nostra operatività tradizionale, abbiamo soprattutto la componente delle commissioni che può beneficiare uno sviluppo soprattutto sul risparmio gestito, cioè ci attendiamo di crescere le commissioni di circa 140 milioni di euro nell'arco del triennio, credo siano obiettivi raggiungibili. Questo, come lei già accennava, a questo arriverete anche con una riduzione dei dipendenti degli sportelli, ho capito bene? Sì, noi abbiamo fatto un'azione di razionalizzazione della nostra presenza degli sportelli, sono circa 130 sportelli che andremo a chiudere nell'ambito del piano, abbiamo lavorato per individuare sovrapposizioni e situazioni di inefficienza nell'ambito della nostra rete, questo è un obiettivo che porteremo avanti, abbiamo anche individuato una serie di esuberi, poi dovremo evidentemente confrontarci con le forze sindacali per trovare gli strumenti più corretti per gestire questi aspetti, ma devo dire che dall'altro lato abbiamo anche un piano ambizioso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti, compreso il consumer finance, che è uno dei temi significativi del nostro piano industriale. Ecco, mi tocca una curiosità, adesso alcuni bilanci, come raccontavamo con Andrea Fontana, sono piaciuti di più, altri di meno al mercato, però in generale notiamo un miglioramento dei conti delle banche, vale anche per voi, siete passati da 16 milioni di utili nel 2013 a 29,8 nel 2014. Molti ci chiedono, ma insomma le banche sono in sofferenza, e qui il gioco di parole è facile, con le sofferenze bancarie, i crediti da cui non riuscite più a rientrare, o stanno migliorando e quindi non soffrono e guadagnano di più? Ma io credo che... Cioè come si tengono assieme le due cose? Perché da un lato voi denunciate correttamente che i miliardi di sofferenze bancarie sono a record, dall'altro però gli utili migliorano. Allora, qualche segnale di miglioramento nel corso del 2014 c'è stato, però oggettivamente le banche devono esprimere dei livelli di redditività diversi da quelli attuali, devono necessariamente ritornare ad una politica dei dividendi che non è quella dei centesimi ma è dei livelli più significativi, e per fare tutto ciò io credo che l'intervento debba riguardare sia il profilo dei ricavi che quello dei costi e soprattutto quello del rischio. Io credo che tutte le banche abbiano avuto questi anni livelli di accantonamenti, lei diceva bene, il tema delle sofferenze è un tema centrale che ha penalizzato enormemente il risultato finale, cioè la parte alta del conto economico, margine interesse e commissioni, in taluni casi ha performato bene, ma poi quando si arrivava agli accantonamenti gran parte di questa redditività veniva mangiata. Abbiamo bisogno che ovviamente ci sia un'inversione di tendenza dal punto di vista dell'economia, noi vi siamo usciti con questo piano industriale perché intravediamo a partire dal 2015 qualche segnale positivo di inversione di tendenza, la maggior parte degli analisti prevedono che il PIL dal segno meno del 2014 e anni precedenti torni positivo per poi crescere nel 2016, vogliamo essere pronti a cogliere questa crescita, questa ripresa con la nostra attività. Allora, dottor Vandelli, resti con noi perché ho il traffico e poi vorrei chiedere qualcosa invece anche sul futuro della banca, alla luce di quello che sta, della rivoluzione che sta investendo il mondo delle popolari, di cui lei fa parte, quindi la riforma annunciata dal governo che deve andare adesso all'esame parlamentare, molto contrastata da Asso Popolari, da chi rappresenta l'associazione delle banche popolari. Dopo il traffico. Allora, di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia, siamo con l'amministratore delegato della Banca Popolare Emilia Romagna, Alessandro Vandelli, che ha, non lui ma la banca, come molte altre banche, diffuso i conti oggi. Vandelli, dicevo, la riforma delle popolari, a chi si fosse perso i capitoli precedenti, il governo ha varato una riforma che riguarda solo le banche popolari con oltre 8 miliardi di euro di patrimonio. Quindi le più grandi, molte di queste sono quotate, non tutte, non per esempio la Popolare di Vicenza, e che va a eliminare la specificità delle popolari, il voto capitario, una testa, un voto, al di là della quota che tu hai, la soglia dell'1% e altre caratteristiche delle popolari, che le rendevano di fatto molto difficilmente contendibili o quasi impossibili da contendere, e creavano dei blocchi, questa è l'accusa, di potere interni, perché chiaramente nel caso della Pop Milano con i sindacati, ma non solo, il fatto di avere una testa, un voto, fa sì che poi si possano creare dei blocchi di persone che anche con una quota molto bassa del capitale bloccano ogni attività della banca. Allora, vorrei capire intanto se lei come valuta questa riforma, perché molti dicono adesso vi siete svegliati con Asso Popolari, però per anni qualunque tentativo di riforma restava pietrificato nella foresta. Adesso cercate una controproposta, ma a dimostrazione che non avreste voluto fare nessuna riforma. E in secondo luogo vorrei capire se vi sentite più preda o più cacciatori. Ma guardi, in 30 secondi poi rispondo direttamente alla sua domanda, però mi lasci dire, perché se ne dette di ogni in questo video sulle popolari, due punti essenziali. Il primo, le banche popolari hanno sostenuto economia, piccole e medie imprese come più di altri in questi anni, e credo che questo vada riconosciuto. Nessuno lo mette in dubbio però questo. Il secondo, diciamo che qualche osservazione sulla qualità del sostegno che è stato dato forse è emessa, ma non è questo il tema. Il secondo, non ha impedito di creare banche popolari importanti. Noi siamo sesto gruppo bancario, siamo quotati in borsa, siamo sui mercati. Il mese scorso siamo usciti con un cover bond di 750 milioni. Dico questo perché il tema non è il sostegno dell'economia, non è probabilmente l'apertura ai mercati. Detto tutto ciò, credo che il percorso avviato sia difficilmente reversibile, quindi io credo che andrà avanti. La preoccupazione mia personale, ma sento condivisa anche da altri colleghi, è far sì che sappiamo generare nuclei di azionisti che diano stabilità alla governance della banca. Questo è il tema principale. Oggi è impostata, se vuole, anche con il rischio che questo processo degeneri, come lei richiamava, però oggi è impostata con una modalità, come dice lei, una testa in voto. Noi abbiamo 90.000 soci, non abbiamo 4 che hanno il 20%. Ora credo che sia importante studiare e portare avanti le cose in modo tale che ci siano dei nuclei di azionisti che diano stabilità alla governance della banca, e non che ogni assemblea si formi un assetto variabile incomprensibile fino al giorno prima, che dà instabilità non solo alla banca ma sì, vabbè, adesso io non posso tornare sul tema. Faccio notare che qui si tratta solo di banche popolari sopra gli 8 miliardi che sono quotate in borsa, e che dove obiettivamente a mio avviso è molto difficile distinguere la differenza da una banca SPA. Se poi lei parla del BCC, del credito cooperativo, ma siamo tutti d'accordo, e devo dire che la legge non le tocca. Non mi è piaciuto personalmente il metodo, il decreto quasi d'urgenza, però è anche vero che per anni questo tema voi l'avete affossato ogni volta, voi dico come mondo delle popolari, ogni volta che veniva sollevato, ne sa qualcosa l'ex deputato Iannone se non ricordo male, ogni volta che veniva sollevato non c'era una controproposta, c'era il no e basta, il blocco su questo. E poi il mondo delle popolari può contare anche su, giustamente, molti appoggi in Parlamento, legame della politica col territorio e quant'altro. Ma detto ciò, e immaginando che comunque questo decreto sia modificabile verso il meglio, a questo punto lei diceva non si tornerà più indietro. E a mio avviso potevate, se non volevate essere spiazzati, proporre voi qualcosa prima, così magari. Però è inutile pensare al passato. Mi dica una cosa adesso, intanto, se lei ritiene che questa operazione venga fatta per salvare Cassa di Risparmio di Genova e Monte dei Paschi. Diciamo che qualche commentatore ha detto che si è costruito il pagliaio per nascondere il lago. Lei è convinto o no? Ma io sinceramente devo dire, credo che qui ci fosse la volontà di dare un messaggio forte anche al sistema bancario. Sono d'accordo con lei, il sistema e lo strumento del decreto è abbastanza anomalo e oggettivamente ha spiazzato tutti. Detto tutto ciò, non escludo insomma che possa anche essere un modo per favorire un certo tipo di aggregazioni che tra una popolare e una SPA sarebbe piuttosto complicato realizzare. Ecco, visto che si parla di aggregazioni, ora nel momento in cui diventate veramente contendibili, al di là della paura che in alcuni arriveranno le banche straniere, uno può fondersi o volontariamente o essere conquistato. Vi interessa la Banca Cesare Ponti? No. Ma dico, avete qualche interesse per qualche fusione o preferite aspettare ed eventualmente essere comprati? Ma guardi, questa seconda ipotesi la scarterei proprio come definizione. Detto tutto ciò, io quello che io credo e vedo in termini di prospettiva due fasi successive. L'esigenza comunque di dare stabilità al proprio azionariato. Ripeto, questo è un tema, non l'ho sentito commentato più di tanto, ma questo è il tema in questo momento, cioè creare e far sì che le banche abbiano stabilità di governance. Detto questo, io credo che il processo della concentrazione del sistema bancario in italiano sia pressoché ineludibile. Abbiamo fatto molto meno meno di quello che è avvenuto negli altri paesi, e credo che all'interno delle delle popolari sia possibile fare qualcosa, e credo condividere valori, modalità di fare, di essere banche sia possibile, e mi auguro che di poter instaurare un momento di confronto con qualcuna delle altre banche che fanno parte delle popolari. Ma mi dica l'ultima cosa, è possibile l'acquisto, per quello che vi riguarda, da parte della fondazione delle minorities del Banco di Sardegna, è vero o solo voci di mercato? Ma guardi, sono voci. Quello che mi fa piacere sottolineare è che c'è una dialettica molto aperta con la Fondazione Banco di Sardegna, che è nostro partner in Sardegna. Poi quello che sarà il futuro, si incrociano in questo momento due evoluzioni normative, quella che riguarda le popolari, dobbiamo aspettare come finisce, ma anche quelle delle fondazioni, che se passa veramente il limite del 30% della concentrazione dell'attivo imporrà delle decisioni da parte loro. Può darsi che queste due decisioni possano anche convergere. La ringrazio e in bocca al lupo a lei, e soprattutto ai dipendenti della Popolare Emilia Romagna. Grazie quindi all'amministratore delegato Alessandro Vandelli. E prima di chiudere ci colleghiamo con Bruxelles, dove c'è la mitica, almeno per chi ascolta questo programma, Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi dell'Europa. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, oggi non citerò articoli e quant'altro, voglio solo sapere, visto che la cosa mi sembra molto in divenire, verso quale compromesso Moscovici, il tema è la Grecia, chiaramente c'è un Eurogruppo, il vertice dei ministri economico-finanziari sulla Grecia, abbiamo letto di tutto in questi giorni, posizione di Schäuble, posizione della Grecia, la Grecia che tratta con l'Ocse, Moscovici, il commissario europeo ha detto lavoriamo per arrivare a un compromesso, ma da quello che si capisce oggi e soprattutto sarà possibile un compromesso? Ma allora oggi no, di certo, nel senso che oggi ci sarà una prima presentazione e discussione tra le parti, che stando alle indiscrezioni sarà una discussione molto dura, nel senso che i greci ribadiranno le loro posizioni e soprattutto i tedeschi, i nordici, ma anche gli altri, anche noi che alla fine abbiamo dato 40 miliardi ai greci, quindi abbiamo, come dire, una posta in gioco molto elevata, tutti li richiameranno diciamo alle regole, ai trattati, all'ordine costituito. Questo quindi incontro sarà interlocutorio. Domani il vertice europeo dovrebbe ascoltare Tsipras, ma il primo ministro greco, ma non diciamo avviare negoziati. Il giorno cruciale sarà il 16, cioè lunedì prossimo, quando ci sarà l'Eurogruppo che davvero, sentite appunto le indicazioni del vertice, entrerà nel merito del negoziato. Quello sarà il momento della verità. Si vedrà se diciamo, come tutti speriamo, si arriverà a un accordo, o se non invece non ci possa essere qualche incidente di percorso e il rischio di rotture, perché diciamo in questo momento qui l'atmosfera non è molto ottimista. Si spera nell'accordo, ma non si esclude una rottura, possono essere strappi. Certo, abbiamo visto poco fa, è uscita una dichiarazione di Schäuble, il ministro della finanza tedesco, che dice oggi è solo l'inizio di un processo, che dice sì, molto dura, e vale in quello che tu raccontavi, è l'inizio di un processo, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma un programma esiste, o viene portato a compimento o non abbiamo più un programma. Quindi Schäuble in questo momento non apre a nessun tipo di nuovo accordo, poi vedremo la tattica, e tattica per tutti, però in questo momento si è al muro contro muro per quello che riguarda uno dei partner principali dell'Europa, ossia la Germania. Grazie per ora ad Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, ed è per ora tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.